9 in punto, la versione di Oscar. Eccoci in studio e siamo proprio sicuri che non c'entri lo spirito del ritorno don giovannismo che nel genere maschile viene per così dire radicato per DNA nella nostra maniera di comportarci, di manifestare le prime attitudini da che siamo ancora preadolescenti, adolescenti. E andiamo avanti nel nostro tragitto di formazione completo e compiuto di come esercitiamo la nostra natura identità maschile all'interno dei rapporti di ogni proiezione del vivere privato e pubblico. E non lo so, questa è la domanda di oggi sulla quale vi invito a interrogarci. Chiamate all'800 24 00 24. Parliamo di una vicenda, la vicenda che ha riguardato una minore a Montalto di Castro, una minore che viene violentata quando ha 16 anni, viene violentata da 8 altre minori maschi, lei li denuncia, ha la forza di denunciarli, inizia il procedimento che avviene, come ovvio e come giusto, secondo le procedure e le tutele previste per i minori nel nostro ordinamento, e quindi si giunge alla messa in prova dei minori responsabili di questa violenza, quindi tornano liberi nel paese, nello stesso paese in cui anche la minore naturalmente sta crescendo e li incrocia per strada tutti i giorni. La reazione sua e della famiglia è una reazione di, a mio giudizio, comprensibile e legittima, non solo amarezza, ma una domanda viene da loro a noi tutti: possibile mai che sia giusto così? Non per chiedere una pena afflittiva ai minori responsabili di questo gesto che sconvolga loro per sempre la vita, ma è proprio giusto che una minore che trova la forza di denunciare una cosa di questo genere si veda poi intorno a un paese che, da, lo sentiremo dalle testimonianze giornalistiche, solidarizza con gli 8 dicendo che sono bravi ragazzi, mentre sarebbe lei la vittima a non essere stata una brava ragazza, anzi ad esserselo voluto. Ecco, è per così dire una vicenda che ripropone alcuni, ohimè, classici tratti del machismo italiano di peggior specie. Lo fa aggiornata ai nostri tempi, quindi interrogandoci sul fatto se siamo davvero cambiati oppure no, o se c'è qualche cosa di profondo, connaturato nel nostro solidarizzare con libertà improprie e violenze che i maschi in formazione vedono associati alla loro identità e ne vedono confermata la possibilità. La mia opinione, e qui finisce il mio pistolottino più breve, tenterò di farli sempre più brevi, iniziali, è che evidentemente le tutele nella procedura minorile nei confronti di chi commette reati anche gravi quando è minore vanno benissimo, ma la mia opinione è che di fronte a delitti che hanno a che vedere con l'espressione di sé rispetto degli altri, che sono cioè qualche cosa di identitario, che ha a che vedere con una costruzione a tappe, a processi, quando si è una minorità, dell'identità di se stessi e del rispetto dell'identità degli altri, devono trovare, quando hanno a che vedere con sfere come il sesso, il rispetto della propria personalità e di quella degli altri e la violenza, forme diverse dalla semplice restituzione alla vita ordinaria, soprattutto se questa restituzione significa tangibile percezione della solidarietà e del sostegno della comunità civile nel quale si appartiene, perché non credo che in quel caso, evidentemente, nel prosieguo della formazione dell'identità psicologica di quel minore che ha commesso un reato di questo genere, si formerà la giusta riflessione e la giusta riprovazione per quello che ha fatto e la percezione precisa del fatto che mai più dovrà immaginare che sia giusto farlo. Ecco, questa è la mia semplice opinione. Vi presento gli ospiti, vi invito a intervenire. Abbiamo con noi innanzitutto Marida Lombardo Piola, che è una straordinariamente brava collega del Messaggero, che ha seguito anche questa vicenda, ha seguito molte vicende in questi anni che hanno a che vedere con l'adolescenza, la maladolescenza e ciò che i tempi nostri inducono negli adolescenti. Tra l'altro vi segnalo un libro che si intitolava L'età indecente, ho 12 anni, faccio la cubista, mi chiamano principessa, tutti libri che nascono proprio da ciò che scrive sul Messaggero. Buongiorno Marida. Buongiorno. Abbiamo poi collegato con noi Franco Coviello, che è un avvocato. Cardillo. Cardiello. Ah, Cardiello, mi perdoni, avevo il nome sbagliato sul mio foglietto. Avvocato di parte civile, quindi rappresenta la famiglia della vittima in questa vicenda. Buongiorno avvocato. Buongiorno a lei. E poi per aiutarci a riflettere sulle tutele, i limiti delle tutele attuali e i fini delle tutele attuali ai minori, un magistrato, Vincenzo Galgano. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, io comincerei con lei, perché deve immaginare che chi è collegato con noi a casa non ha ben presente naturalmente le norme, i principi e tutele del nostro ordinamento per i minori. Senza esagerare in tecnicismi, ci aiuti a capire la decisione della messa in prova dei minori, il fatto che tornino nel paese, a prescindere dal fatto che poi il paese a quanto pare solidarizza con loro, e era una via senza alternativa nel nostro ordinamento? Prima domanda. Seconda domanda, la sua opinione, è giusto che avvenga questo? Ma veda, la messa in prova è una misura che è scelta, come tutte le altre misure, alla luce di una serie di elementi dei quali l'autorità giudiziaria competente non può non tenere conto. A proposito appunto di soggetti minori, quali sono quelli di cui stiamo parlando. Evidentemente nel caso che ha dato lo spunto alla vostra trasmissione c'è stato una percezione di una eccezionalità della condotta, per cui si è ritenuto che questo episodio sia un episodio che non si dovrà ripetere, che non si ripeterà. Purtroppo però spesso il meccanismo che dovrebbe essere diretto al recupero e alla migliore condizione dei minori diventa un meccanismo che si traduce in impunità per fatti di particolare gravità, molto lesivi di interessi che dovrebbero essere più attentamente e più completamente protetti. Perché i tempi che stiamo vivendo ci mettono a contatto di fenomeni di devianza minorile che sono, a mio avviso, estremamente allarmanti. Io che lavoro in una città, come dire, esemplare anche sotto questo profilo, nel senso che vi sono ampi strati della popolazione giovanile portati a commettere reati di vario tipo e di varia gravità e di varia natura, sono consapevole del fatto che questi minori non hanno nemmeno un meccanismo psicologico che possa favorire in essi un atteggiamento di dissuasione, una scelta di non fare in vista appunto di situazioni pregiudizievoli nelle quali potrebbero imbattersi. In effetti tutta la devianza minorile è una sorta di devianza che, salvo casi eccezionali e gravissimi, è non seguita da un meccanismo punitivo dissuasivo, a mio avviso. Le faccio due domande insieme per capire, perché immagino molti a casa chiederanno, iniziano a arrivare i primi messaggi, ma non era meglio tenerli in un istituto correzionale quantomeno? Quindi la prima domanda è relativa a negli anni, com'è cambiato da questo punto di vista il sistema italiano? Seconda domanda, ma alla luce di quello che lei ha appena detto, ma siamo sicuri che non bisogna abbassarla l'età in cui si diventa pienamente responsabili? Io personalmente, e la mia però è un'opinione isolata, ritengo che l'ingresso nella cosiddetta maggiore età e quindi nella piena imputabilità debba essere abbassata. Il ragazzo che ha 18 anni oggi è totalmente diverso dal ragazzo che è stato preso a modello nel 1930 per determinare questo passaggio dalla minore alla maggiore età. Ma è un modo di pensare che evidentemente non è condiviso né a livello scientifico né a livello sociale né a livello politico, oltretutto, che è l'unico livello che conti, in quanto le leggi le fa il Parlamento. E dobbiamo quindi adattarci a convivere con una normativa che, a mio avviso, è vistosamente inadatta oggi a quello che è il fenomeno della devianza minorile, anche perché il presupposto di quelle soluzioni buoniste è la presenza di una famiglia che sia in grado di esercitare un controllo sul minore e di indurlo ad agire meno peggio. Il problema vero è che oggi la famiglia tradizionale, la famiglia del 1930 e del 1950, 60, 70, non c'è più, non esiste più. Rimandare un minore ai genitori significa rimandarlo nell'ambiente che gli ha consentito di deviare. Occorrerebbero grossi e importanti investimenti per poter giungere ad un meccanismo di recupero dei minori più soddisfacente per tutti. Ma a quanto pare le nostre condizioni finanziarie come paese non ce lo consentono. Anzi, i meccanismi giudiziari sono fortemente inceppati proprio dalla mancanza di capitali investiti in questo comparto. Benissimo, allora io sono un po' dell'opinione che il Procuratore Generale qui di Napoli ci dia iniziali alcuni elementi. Primo, la messa in prova, bisognerebbe ragionare davvero se per delitti gravi come gli stupri, violenze, rapine sia proprio così senza alternative. Secondo, forse la piena imputabilità, sicuramente oggi i 18 anni dei ragazzi di oggi non sono paragonabili con quelli di 70 anni fa e lo sappiamo tutti. Da questo punto di vista quindi il politico probabilmente ha paura di sembrare cattivo se mette mano a questa norma. E forse però da vicende come quelle di cui stiamo parlando ci sarebbe da riflettere. Sentiamo un secondo qual è stata la testimonianza raccolta dalla voce della madre della vittima della vicenda di cui stiamo parlando. Mi è scappato, dico, povera ragazza, dico, sa che è passato. E lei era lì a tavola, lei si è messa a piangere, e dico, perché mamma, che la conosci? Dice, no, sono io, mi ha detto. E tutte le cose che ho fatto, ho avuto il coraggio di denunciarli, dice, è finita così? Basta. E tutto questo è quello che hanno fatto? È questo che lei gli fa rabbia. Cioè, tutto questo è finito così, finisce e basta? E io non so cosa rispondergli. Se sapevo che no, era così, la giustizia dice che è inutile che io dovevo affrontare tutte queste cose. Non è voluto più andare dal psicologo, lei incomincia a non mangiare, a stare nervosa, sta drogata nel letto. E con i fratelli era uscito un pochettino per svagarsi un sabato sera. Ha visto a due di loro e si è messa a piangere e è voluta ritornare a casa. Tra l'altro nella vicenda mesi fa aveva fatto rumore sui giornali un prestito che era stato concesso dal primo cittadino di Montalto di Castro, cioè dal sindaco ex DS PD agli accusati ai componenti del branco, insomma agli stupratori, con vasta eco sui giornali del sindaco in polemica poi con figure nazionali del suo partito. Poi il sindaco aveva cercato di precisare per il loro recupero, non è per il sostegno, si era parlato all'inizio delle spese processuali, insomma un pasticcio, ma è un pasticcio che però nelle testimonianze che continuano a ogni tanto da Montalto di Castro a seguire questa vicenda, chiedo a Maria Lombardo Piola di darci la sua versione dei fatti, sembrano fotografare un crescente consenso di Montalto di Castro verso il branco, appunto. Abbiamo trovato anche una dichiarazione di un parroco, non italiano, ma che svolge lì la funzione di parroco, il quale si allinea alle voci più anonime raccolte dai giornalisti che ogni tanto chiedono ai cittadini di Montalto cosa pensano tra il branco e la vittima, e anche il sindaco dice: ma in realtà questi otto sono tutti bravi ragazzi, è lei che non lo è. Marida, che cosa in realtà dal tuo punto di vista questa vicenda ci dice? Siamo ancora ai tempi in cui una minore deve temere per la lunghezza della gonna e Montalto di Castro che è un pezzo d'Italia che non è l'Italia, o è l'Italia come Montalto di Castro secondo te? Ma guarda, io tieni conto che questo tipo di atteggiamento da parte della comunità di Montalto in maniera trasversale rispetto all'età e alle fasce sociali c'è sempre stato rispetto a questa vicenda, prima ancora che questi ragazzi fossero messi in prova, per cui questa mancata condanna è suonata quasi come una legittimazione del consenso collettivo a beneficio degli stupratori. E io ho avuto la sensazione sinistra nel seguire questa vicenda, nel parlare a lungo con la mamma di questa ragazza, di fare un lungo passo indietro nel tempo, al 79, non so se ricordate il processo per stupro, che rivelò a tutto il mondo come nelle vicende per stupro la tendenza era quella a accusare e trasformare in una imputata la vittima piuttosto che i colpevoli. Quindi una specie di sospensione nel tempo che ci rivela che esistono delle comunità, e c'è da chiedersi quanto diffuse, stiamo parlando del centro Italia, non del profondo sud contiguo al mondo arabo, dove la donna viene ancora considerata portatrice di un corpo che deve essere considerata la stregua di uno strumento di piacere, del quale si può liberamente disporre, soprattutto davanti a un incoraggiamento tale viene considerato come quello di portare una minigonna o uscire la sera. Tutto questo ti lascia senza parole, soprattutto se pensi che questo tipo di cultura è contigua ad un'altra, chiamiamola cultura tra molte virgolette, che dilaga soprattutto tra i preadolescenti, gli adolescenti, e che ha determinato una sessualizzazione precoce, compulsiva, in virtù della quale le ragazze non solo sono molto disinibite, ma si trasformano spesso in predatrici e sono portate anche loro a considerare il proprio corpo uno strumento. Questo è un messaggio abbastanza coerente che arriva anche dai media, dalla pubblicità, uno strumento per conquistare visibilità, successo, addirittura soldi. Il fenomeno della microprostituzione è diffusissimo nelle scuole. Quindi sì, uno spaventoso pasticcio culturale che ci porta davanti alla realtà inquietante di una intera comunità che legittima uno stupro, e quasi poi per esorcizzare una cattiva coscienza, in virtù della quale potremmo anche pensare che chiunque di loro, qualcuno l'ha anche detto, nelle stesse situazioni si sarebbe comportato nello stesso modo, cioè avrebbe approfittato di questa ragazza. Ora, noi stiamo parlando di una ragazza che, per effetto della vicenda e di come viene gestita questa vicenda, per il terrore di incontrare i suoi violentatori, è capitato che per esempio in un pub a Tarquinia li incontrasse ed è fuggita via disperata in un pianto dirotto, ha rinunciato ad alcuni suoi sogni di vita, probabilmente a laurearsi in lingue, ha cambiato scuola, ha interrotto il trattamento dello psicologo, come avete sentito, ha detto la madre nella testimonianza resa al TG1 che abbiamo ripreso e riproposto. Quindi la vita di questa ragazza appare molto più seriamente distrutta e impedita in uno sviluppo regolare ed equilibrato di quella di chi l'ha violentata. Eccoci tornati in studio, ci stiamo occupando degli elementi di riflessione che ci consegna la vicenda di questa minorenne stuprata a Montalto di Castro, che vede il branco dei suoi stupratori, anche se minorenni, restituiti poi alle famiglie attraverso l'istituto della messa in prova, vede la sua vita a quel punto distrutta perché ha il terrore di reincontrarli. E la domanda è: visto che la comunità è solidale con gli stupratori, che cosa questa vicenda ci dice di come funzionano o non funzionano le famiglie? Quali sono i valori che si trasmettono ai minori? Siamo così sicuri che il buonismo sia la risposta giusta o che non sia la maniera di confermare un tratto dominante, purtroppo prevalente, della nostra pessima maniera di essere maschi italiani e di esserlo anche attraverso il codice penale? Avrete capito che io sono molto critico, io vorrei un pugno un po' più di ferro su questa vicenda. Sentiamo cosa ne pensano gli ascoltatori, deve ancora poi parlare nel primo giro di opinioni l'avvocato di parte civile. Cominciamo con Giuseppe della provincia di Salerno. Buongiorno. Senta, io volevo soltanto dire che secondo me la colpa di questa situazione può sembrare paradossale, ma è delle donne. E delle donne, le dice. Delle donne, sì. Cioè, perché? Cioè, voglio dire, non perché hanno la minigonna o perché sono liberi, ci mancherebbe altro, ma perché purtroppo questi ragazzi sono figli di donne. Beh, tutti lo sanno. Certo. Infatti, gli uomini sono figli di donne. E se andate a chiedere a una madre di uno di questi ragazzi che ha compiuto questo atto cosa ha fatto il figlio, dirà che è una ragazzata. Cioè, una donna non difende un'altra donna, ma difende il figlio. Allora, se una donna, nel momento in cui un figlio commette un atto del genere, si limita a dire che è un bravo ragazzo, la colpa è stata della ragazza, come pretende che noi uomini possiamo essere solidali con la ragazza che ha subito questa violenza? No, mi scusi, questa conclusione l'inviterei a ripetere. Lei è convinto che siccome nella media le madri difendono i figli, gli uomini li devono difendere ancora di meno, devono difendere ancora di più i maschi? Ma non è che voglio dire che gli uomini devono, che diventa una conseguenza. Cioè, se le donne stesse, le madri di quei ragazzi avessero preso, come diceva ma lei, mia madre, mi scusi, adesso non voglio litigare, è rispetto, ma perché in questo caso lei pensa che la responsabilità delle madri sia preminente nell'imprinting di un carattere maschile adesso degenerato? Adesso glielo dico. Perché secondo me è dai padri che si impara a rispettare le donne. È dalle madri? Se mi permette, prego. Mia nonna, che era del 1892 e viveva con noi a casa, mi raccontava che quando mio padre era giovane andava in giro facendo il galletto e qualche madre di qualche ragazzo si lamentava, sa come gli rispondeva? Glielo traduco letteralmente in italiano: tieni legata la tua cagna che io il mio cane lo tengo sciolto. Quindi il problema è vero che i maschi portano questo machismo, ma è vero che le donne, le madri soprattutto, lo avallano pienamente. Quindi è inutile, cioè non si dice a Montalto di Castro i maschi giustificano il branco e le donne difendono la ragazza. Si dice a Montalto di Castro difendono il branco. Sì, no. Ma temo però, adesso non facciamo il battibecco tra lei e me, benissimo, registriamo la sua opinione, è una maniera di accendere il dibattito. La mia opinione è che in una comunità dove il valore maschile è preminente, non mi stupisco neanche che le madri solidarizzino con i comportamenti dei generi dei figli maschi, perché l'imprinting maschile è quello che esercita il potere dominante. È inutile che ci illudiamo, e nelle piccole comunità è ancora più così, perché se per secoli è stato così. Sì. Ma le madri hanno sempre avuto una forte influenza. Avranno avuto la forte influenza, ma alla fine comandava il padre in famiglia. Questo è il punto di fondo. Queste poi sarebbe una storia molto lunga. Infatti. No, ma io è per animare il dibattito che l'ho interrotta. Grazie moltissimo. Giuseppe, sentiamo Francesco da Roma. Buongiorno, ho ascoltato con attenzione tutto quello che è stato detto, compreso l'ultimo intervento. Per la mia età, io sono ultra sessantenne, e ricordo perfettamente quando uscì quel meraviglioso film che era La Ciociara di De Sica. Ricordo anche la voglia di non vedere quelle scene dello studio. Io ricordo la fatica che si faceva, che io ricordo le mie sorelle, ricordo mia moglie, erano infastidite da quelle scene dello stupro, con la Sofia Loren, con la figlia. Ed era poi una rappresentazione cinematografica, figuriamoci. Ricordo ai nostri ascoltatori, siccome Radio 24 c'ha una certa popolarità per titoli di film che poi non si sa cosa siano, mi riferisco a un famoso oramai episodio della Zanzara di Cruciani, però quello film che si riferiva alla guerra, erano le truppe nordafricane al seguito degli alleati che risalivano la penisola che stupravano le italiane. Insomma, lei capisce che mi fa il paragone con la situazione in cui ci sono i marocchini. Vediamo lo stupro. Allora fece questo fastidio, questa indignazione. Oggi quando c'è uno stupro si sente per radio, si vede in televisione, si legge sui giornali e vedo che scivola sul pensiero delle persone. E più volte mi sono chiesto: ma perché? Dov'è il nodo? Come mai accade quasi quotidianamente? Perché noi parliamo degli stupri. E la risposta? Degli stupri denunciati, figuriamoci quelli non denunciati. Ma la risposta poi alla fine che mi sono dato è che la famiglia ha abdicato nell'educazione. Quindi noi parliamo dei ragazzi, parliamo dei figli, parliamo della gioventù. Ma questi adulti. Grazie, famiglie, grazie Francesco. La formazione? Francesco, la interrompo perché lei ha toccato il punto che mancava. La famiglia, e questo è un collasso identitario della famiglia. Sono molto d'accordo. Andrea da Genova. Sì, sostanzialmente, sentendo il primo intervento, le madri responsabili di un certo tipo di condotta, mi trova in parte d'accordo. Logicamente la conclusione è stata un attimo fuorviante. Ma sicuramente il recupero lo deve fare la società italiana, il recupero dei valori, della famiglia, di un'educazione, perché poi in maniera minore lo vediamo anche spesso, lo leggiamo spesso sui giornali, episodi di bullismo non altrettanto gravi, ma episodi di bullismo nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie, dove troviamo elementi negativi, aggressivi, nei confronti di compagni maschi ma anche di compagne. Sì, sì, sono molto maniera, d'accordo. Voglio dire, vicende come queste ci sono tutti i giorni, tant'è che adesso ci sono i giornali pieni della coda di quella di Ascoli, sedicenni anche lì, molte minorenni ad Ascoli Piceno violentate da due appena maggiorenni che usavano Facebook e social network per attirarle in una casa, coca, sesso, stupri di molte decine, tanto che il sindaco della città in quel caso, altro problema su cui riflettere, il sindaco si chiama Guido Castelli, è un avvocato quarantenne al centrodestra, sta proponendo a tutte le famiglie di Ascoli Piceno un filtro a spese del comune sui computer di famiglia per filtrare appunto i social network tipo Facebook. Bisogna interrogarsi poi anche su queste nuove forme di comunicazione che sono fondamentali nel determinare un comportamento di massa che si allarga a macchia d'olio. Naturalmente non si può combattere contro gli strumenti di comunicazione, ma bisogna per questo avere occhi e orecchie ancora più attenti nelle famiglie. Io non credo che la colpa sia delle madri e delle donne, questo ve lo dico con grande sincerità, non so se la mia opinione è maggioranza o minoranza. Ancora Giovanni da Roma. Prego Giovanni. Buongiorno, ma io volevo mettere in risalto un altro aspetto, oltre a tutti quelli che sono stati detti sul macismo eccetera, credo che una componente importante sia stata il campanilismo, il fatto che la ragazza fosse del paese vicino e non dello stesso paese dei ragazzi, questo ha portato il paese a solidarizzare quei ragazzi, a partire dal sindaco che ha promesso un contributo, non so se poi l'ha dato, in denaro per la difesa dei ragazzi. Lei dice, in questo mondo così unito, che la distanza di 500 metri del confine tra Montalto di Castro e il comune a fianco e la questione identitaria fondamentale. Probabilmente sì, probabilmente ha ragione. Non fondamentale, è una delle componenti. È una delle componenti che lei dice aiuta a capire perché nel paese tutti solidarizzano con i ragazzi. Perché la ragazza non è del paese, un'estranea, è un'altra, appartiene a un'altra comunità. Quindi c'è il desiderio di difendere la propria comunità. Se, è un abbellismo che risponde. Grazie Giovanni. Avvocato Cardiello, ci fa capire dal punto di vista della parte civile quanti interessi sono calpestati in questa vicenda e che cosa è giusto chiedere? Guardi, io ho ascoltato sia il magistrato che la giornalista e prendo atto che partiamo tutti da un unico punto di riferimento, che è quello che allo Stato manca la famiglia per questi ragazzi. Quindi punto fondamentale e focale dei giovani di oggi che commettono reati è la mancanza di valori che non vengono più inculcati da parte dei genitori, quindi non dico la madre e solamente la madre, il padre, i fratelli e le sorelle. Questo caso particolare che io ho seguito dall'inizio ha distrutto per sempre la vita non solo scolastica ma soprattutto psicologica di questa ragazza che allo Stato, nonostante siano decorsi alcuni anni, non riesce a riprendersi da quella che è stata una violenza gratuita, tant'è che gli stessi ragazzi fino all'ultima udienza non avevano chiesto scusa né ai genitori né avevano ammesso i fatti nonostante c'erano le prove della violenza di branco, del gruppo. Allora dico, in udienza c'è un atteggiamento di sfida nei confronti dei magistrati, nei confronti degli avvocati, nei confronti della famiglia. La cosa grave è che è stata data la messa in prova, io non ero d'accordo, non perché assistevo la ragazza che aveva subito la violenza, non ero d'accordo perché il reato è gravissimo. Allora ci sono due pesi e due misure. Se per i maggiorenni si inaspriscono le pene per le violenze, per i minorenni c'è un buonismo che appartiene agli anni addietro, non appartiene più ad oggi. Voglio dire, noi non ci siamo potuti costituire parte civile nel processo perché non è previsto nel processo minorile la costituzione della parte civile, non è ammesso intervenire nel processo della parte offesa nei confronti dei minorenni. Quindi l'unica arma che ha questa ragazza è quella di chiedere adesso un risarcimento danni nei confronti dei genitori. Voglio fare un flash per quanto riguarda la questione amministrativa di Montalto di Castro. In un primo momento il sindaco aveva stanziato 5.000 euro per un sostegno psicologico e professionale nei confronti di questi delinquenti. Poi c'è stata una sollevazione generale ed è stata ritirata la delibera. Io ritengo che a livello legislativo vanno fatte le modifiche, innanzitutto dare la possibilità alla parte offesa di costituirsi parte civile e quindi interagire nel processo penale. abbassare l'età e quindi anche l'imputabilità, perché come diceva il magistrato prima, non si riconosce più un ragazzo dei 18 anni di oggi rispetto a un ragazzo dei 18 anni del 50, del 60, del 70. Oggi questi ragazzi di 14-15 anni girano armati di coltelli e pistole. Quindi non ci può essere un buonismo a favore di questi delinquenti. Io ritengo che ci sia troppa elasticità nei confronti dei minori. Io posso capire un minore che fa il furto del motorino o fa il furto in un supermercato. Quella è una ragazzata o una bravata. La devo interrompere, ma sono d'accordo con lei. Quando si tratta invece di reati che hanno a fare con i delitti contro altre persone, cioè che esprimono violenza, che hanno a che vedere con tratti costitutivi, ripeto, di un'identità ancora non compiuta, non ancora equilibrata come quella adolescenziale, non si può paragonarli a bravate. Dal punto di vista non della pena afflittiva, ma della metodologia di intervento dell'ordinamento per ridare equilibrio e completa consapevole riprovazione di un delitto così grave a una personalità in formazione, bisogna immaginare delle linee contenitive più severe che restituire a una città che batte loro le mani. Io lo dico con vergogna maschile, perché io lo sapevo che dalla trasmissione di oggi toccavo con mano che ci abbiamo ancora una questione irrisolta nel nostro paese. Questa è la mia opinione. Adesso le informazioni sulla circolazione stradale, poi gli ultimi minuti di riflessione su un altro punto. Ma siamo così sicuri che anche nella politica il poco rispetto del corpo femminile sia così lontano poi dal generare valori come questi nella nostra società? Ma la mia opinione nel darvi la domanda è che io penso di sì. Ecco, ci stavamo interrogando sull'adeguatezza di questi provvedimenti. Marida, siccome osservi da anni, da un punto di vista non solo di giornalista, di cronista, che si infila nei locali e di lì riflette, i locali frequentati dai minorenni, e riflette sui comportamenti che le famiglie consapevolmente, ma forse fino a un certo punto, lasciano proliferare tra i propri figli, altri sostengono che è pressoché impossibile in realtà oramai avere un imprinting sui caratteri di fondo dei propri figli adolescenti, perché tanto sono inevitabilmente esposti a un tale bombardamento di modelli formativi e informativi che la famiglia non può più niente. Nella tua plurima veste, perché poi sei anche una donna, non te lo puoi dimenticare, una madre, una vicenda come questa ti testimonia che è un tratto irriformabile del nostro paese? Se dovessi dire, le famiglie possono davvero cambiare le cose? Guarda, io credo che le famiglie possono, se il lavoro per tentare di farlo comincia subito, comincia immediatamente dal giorno in cui la mamma, accompagnata dal papà, perché ovviamente è un problema di sinergie tra le due figure familiari, tornano a casa dalla clinica, nel senso che il carattere di un bambino, che diventerà tra un ragazzo e un uomo, comincia a formarsi subito, e comincia a formarsi non solo attraverso la trasmissione dei famosi valori. Adesso per i valori sembra la citazione di un luogo comune, però è così, è un insieme di riferimenti forti ai quali un soggetto ispira la propria vita e sui quali costruisce la sua personalità. Quindi non solo attraverso un decalogo di valori, ma attraverso un'accoglienza, un'attenzione che oggi purtroppo in famiglia non c'è più. Cioè, in famiglia si vive da estranei, il primo elemento che manca è quello della comunicazione, dello scambio. E quindi come puoi trasmettere un modo di vedere la vita, di affrontarla, compresa l'idea del rispetto del proprio corpo, del corpo delle donne, della sessualità come elemento di scambio di emozioni, piuttosto che come atteggiamento predatorio di esibizionismo? Ecco, come puoi farlo se tu non vivi in questo modo? Quindi il valore dei famosi buoni esempi, ma trasmessi in maniera carismatica, e questo purtroppo non accade, perché abbiamo una generazione di genitori abbastanza apatici, che sono i primi a trasmettere attraverso il loro modo di vivere esempi di consumismo, di bullismo, e quindi non sono in grado di fare il controcanto a questo insieme di messaggi, alle dittature del branco, che in effetti sono molto difficili da fronteggiare. Spesso però i genitori non sono nemmeno consapevoli dei pericoli ai quali sono esposti i propri figli, non solo come esperienze, ma anche proprio come impatto che per esempio la navigazione sulla rete può avere sui loro processi cognitivi. Non sono consapevoli e non sono in grado di fare il controcanto, perché spesso sprovvisti di strumenti, di valori, di una struttura interiore tale da poterli condizionare in maniera carismatica. Lo so, perché io sono convinto di questo. Il sesso entra con una devastante forza, incontenibile, perché viviamo in una civiltà che oramai è fondata anche sulla trasmissione di questo valore, quando i ragazzini sono molto piccoli. Il problema è che questo dovrebbe indurre padre e madre a moltiplicare le loro presenze e la loro capacità discorsiva, la naturalità anche della fisicità e del sesso nella famiglia, e sono naturalmente questioni molto complicate quando abbiamo una storia alle nostre spalle così risolta su queste vicende fondamentali, questi tratti identitari che, insomma, secondo me sono ancora non stemperati in un'identità placata ed equilibrata, come media generale, naturalmente, con tutte le approssimazioni dei giudizi troppo generalisti. Abbiamo ancora alcuni ascoltatori, per esempio Antonio da Milano. Prego, Antonio. Buongiorno. Giannino, sono d'accordo con le parole che ha detto in questo momento, ma una famiglia che non è presente perché è presa da questo modello che ci danno tutti quelli che ci governano, che bisogna solo avere, non abbiamo tempo per noi stessi e tanto meno per i nostri figli. Quando c'è la possibilità, quando io ho fatto la cena al governo intendevo proprio al corpo la sessualità delle donne usate come strumento per diventarmi, sì. Per diventare, ci siamo capiti, prego Antonio. Certo, ma voglio dire che qui se ai minori non riusciamo a educarli come società, perché qui per la colpa si dà alla società, io dico invece che la colpa, io ho 70 anni, sono un nonno, e la colpa è nostra. E io mi sento in colpa un po' perché se si arriva a avere questa gioventù che non riesce a vedere le cose anche belle ma a rispettarle, perciò voglio dire, certo, si può vedere una ragazzina che è anche bella e anche un pochino provocante perché mette a nudo le sue bellezze, a nudo, ora insomma, che fa vedere. Io dico che bisogna essere educati per apprezzare questa cosa, ma rispettarla però, e questa è la colpa dei genitori, sarà forse anche mia che sono un nonno, ma qui non bisogna coltivare i genitori, la famiglia, bisogna far pagare, non si può che una mamma vada dal preside a picchiarlo perché ha rimproverato cercando di insegnare e di educare suo figlio. E qui è una società che non la rimediamo più se noi non prendiamo a modello la famiglia, e perciò il tuo figlio non ne avrà colpe perché i minori non gli posso fare in granché, le strutture non ci sono, ma paga il genitore. Per me deve pagare, va educato il genitore, e tutta la nostra società deve essere pronta così. Mentre invece qui abbiamo dei modelli così grandi che non ci inducono a far questo, perché intanto bisogna solo avere anche le cose inutili, e perciò dobbiamo lavorare giorno e notte per avere quelle cose e per dare ai nostri minori le cartelle firmate, i pantaloni firmati. E qui non arriviamo più da niente. Giannino, io apprezzo la sua trasmissione e apprezzo quello che si fa, ma se qui non ci svegliamo tutti, il genitore deve essere umile e deve dire speriamo che ci sia qualcuno, perché si dice sempre la società deve fare, ma se quando la società, il preside o qualcuno vuole rimproverare il nostro figlio, noi andiamo là. Bene, esatto, ha toccato un altro punto, io la ringrazio di questo. In realtà poi quando vi toccano i figli insorgete a loro favore. Io ricordo che il sindaco di Montalto di Castro, di cui abbiamo solo accennato, richiamato da alcune figure nazionali del suo partito ad avere un atteggiamento, insomma, un po' meno scandaloso, li ha pubblicamente insultati. Quando la senatrice Finocchiaro di esse l'ha chiamato, lui di fronte al Consiglio Comunale riunito l'ha definita talebana del cazzo. Sono parole del sindaco Carai di Montalto, non le ho usate io. Ecco, questo è il capo della comunità di cui abbiamo appreso che solidarizza perché la vittima sta nel comune a fianco. Ecco, insomma, ancora Enrico da Firenze. Prego Enrico. Buongiorno, e questa la dice lunga, già queste ultime parole che lei ha riportato del sindaco sul personaggio con cui abbiamo a che fare, e spiega anche forse perché ha, diciamo, appoggiato in maniera anche venale, se così per così dire, questi ragazzi che tanto hanno fatto per la società. Comunque, per dirla con la sua collega di prima che è intervenuta, non si tratta qui di trasmettere dei valori a quanto pare oggi da parte della famiglia, ma si tratta di trasmettere 70 byte, e intendo dire con questo esaminatore computer o simili, quindi senza preoccuparsi dei figli, guardando soltanto ad altre cose, considerando che la donna, se si fa vedere in un certo modo, è per forza di cose quello che secondo loro è, soprattutto questo nel centro-sud, perché avevamo pur dette certe cose, molte cose avvengono soprattutto in certe zone geografiche dell'Italia, quanto non parlo dell'Italia, E poi un'altra cosa, diciamo, l'emulazione è un altro elemento fondante della corda, di tutto questo sistema, e quindi ecco, ne vedi uno, ne vedi due, altri 5-10 si sentono anche autorizzati a farlo, stante il fatto poi che la legge quasi quasi ti autorizza dal momento che fino a 18 anni non sei punibile. E che dire ancora qui? Ah, i politici secondo me non fanno niente per evitare cose del genere, e ne abbiamo anche prove lampanti quotidiane. Grazie Enrico, la devo interrompere solo non perché è arrivato a parlare dei politici, ma perché il tempo, ahimè, è sfuggito via tra le nostre dita. Conclusione, maschi, cerchiamo di vergognarci, di fare un pochino di più senza dare la colpa alle donne, che mi sembrano vittime e incolpevoli, a dire la verità, più che responsabili e corresponsabili. Certo, in famiglia si sta in due, però forse siamo noi che siamo portatori di questo cavolo di ideologia violenta, e i vostri figli ne siete responsabili. Ecco, detto questo, ringrazio regia Paolo Corleoni, redazione Alessandro Marco Tulli, la linea al GR, appuntamento domani mattina. Mm.